Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi è martedì, eh? Torna puntuale Kid Factor, il talent show più originale della radio. Ma che dico della radio? L'unico talent show possibile, perché il talento puro lo si trova soltanto nei bambini. Sì, però questa puntata di Kid Factor non è una normale puntata di Kid Factor. Perché anche se siamo solo al secondo appuntamento, giusto? Sì. Abbiamo già una sorpresa di quelle che lasciano senza fiato. Sì, perché siamo fieri di annunciare che abbiamo scritturato il giudice da talent show per eccellenza. Un uomo, cioè un bambino. Insomma, un artista che ha inventato un nuovo modo di fare televisione. Un artista ha messo in castigo proprio come si fa con i bambini. O con i dissidenti se si è in dittatura. Lui ci ha chiesto asilo e noi gliel'abbiamo dato. Avete capito di chi stiamo parlando, vero? Ebbene sì, il nuovo giudice di Kid Factor è lui, Morgan! Morgan. If you're happy and you know, you clap your hands. If you're happy and you know, you clap your hands. Dovrebbe fare il giudice invece di bambini. Morgan, Morgan. If you're happy and you know, just clap your hands. Bravo Morgan, bravo, bravo. Beh, allora vedo che ti trovi bene qui all'asilo, in mezzo ai bambini, solo che tu sei qui per scoprire quello più talentuoso. I bambini hanno tutti talento, hanno tutti spirito artistico, scrivono tutti poesie, vogliono cantare, cantano sempre tutto. Cantano anziché parlare, prima di parlare cantano. Quindi dovremmo fargli studiare la musica prima delle parole e della grammatica, il solfeggio. Sentiamo com'è venuto. I bambini hanno tutti talento, hanno tutti spirito artistico, scrivono tutti poesie, vogliono cantare, cantano sempre tutto. Ecco, questo è un vero spirito bambino. Certo, Morgan, sei tornato bambino, però prima ancora di quando suonavi Chopin al liceo, diciamo. Sì. Beh, io suonavo Scriabin. Tu eri già da bambino eri già al liceo, vero? In quanto talento precoce. Io sono nato con la camicia e al liceo, sì. Ecco, ma andiamo dritti alla questione. La questione dell'infantilismo, Morgan. Noi facciamo questo programma proprio perché vogliamo salvaguardare un luogo della radio, dell'etere, dedicandolo a quello che è la vera natura degli italiani. Drago, non ti ascolta Morgan, sta giocando con bambino. Il suo iPad vabbè, è un'esemplificazione di quello che stai allora dicendo. Sono parole inutili. Senti un po' questo. Sì, va bene. Jimbe. Signorina, non sta attento, il bambino Morgan si distrae e anche il bambino Kappa. Quando c'ho gli strumenti. Arriviamo al punto che è la nostra gara. Io insomma, io ci tengo a questa gara. Anche io, tanto. Perché insomma, il talento, l'abbiamo detto, va indagato. Qual era il discorso del talento? Il talento, innanzitutto c'è una questione aperta sul talento. La metafora dei talenti. No, ma vedi che il talento ha a che fare con la moneta. Certo, sì, i talenti sono quindi, i soldi. Secondo te, Morgan, il talento è solo delle persone che hanno successo e quindi danaro? E si differenzia così dal genio? Oppure si può dire che il talento è anche innato nei bambini e quindi non importa il successo? Tu mi vedi che è una domanda retorica. E poi quando le domande sono lunghe così di solito. Sì, sono noiose e inutili. Infatti era solo per prendere tempo, anche se qui rischiamo di diventare tutti vecchi. Io ho raggiunto la mia vecchiaia più o meno a 6 anni, dove mi vestivo magari così un po' con un dei cardigan beige. Sì, pantaloni in gabardin con la riga, robe tipo col già il panciotto. Avevi anche la sedia che ti aiutava a fare le scale, quella elettrica. Bella quella, bellissima, quella la bellissima. Comoda anche, quella col buco in mezzo. Sì, allora, partiamo dalla comoda e passiamo comodamente, direi, alla gara. Perché bel raccordo, Drago. Eh sì, siamo qui, tutti pronti, tutti tesi. Per la nuova puntata di Kid Factor. Dai Morgan, sei carico. Morgan, cosa fai? Sto incoraggiando Morgan. Lo speaker mica fa così. Sì, sì. Morgan, giudica bene, sta bravo. Bene, ma siamo sul pezzo, siamo sulla musica, perché oggi ascolteremo e faremo giudicare a Morgan due pezzi importantissimi. Il primo di Dini, che sappiamo essere Lamberto. Il nostro... No, non quello dei Simpson. Non è quello dei Simpson. Ah no? No, è un altro, si chiama Dini, è un bambino di 7 anni, viene da... No, te lo spiega meglio Drago. Ha 7 anni, è austro-canadese, olandese, svizzero. Si presenta con una cover soporifera di I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Ma non è vero. Accogliamo con un bel applauso Dini. Meravigliosa, meravigliosa, te lo dico già subito. Mi viene voglia. Ma l'ho fatta io questa, ragazzi. Ma che... come soffre. Virtuale sull'iPad. Certo che con la calimba di Morgan non il pezzo è giusto, insomma. No, era già bello il pezzo, infatti l'ho fatto Morgan, io. L'ha fatto lui. C'è una gara, una mini gara in corso, bisogna votare. Cioè, i nostri spettatori devono votare. Aiutali a capire questa interpretazione. Allora, io dico una cosa, allora, e rispetto all'altro, per cui adesso non mi esprimo, lo farò dopo, prima sentiamo l'altro. Va bene, sentiamo l'altro. Ha 6 anni, è un punk veneto che scrive i suoi pezzi, li suona, li canta, li registra. Insomma, allora... è già un piccolo genio. Si chiama Seba e canta Go Fame. E piace le polpette, casime cotolette, e sacco le spaghetti, niente scatolette. Sono la babona, anche la salata, erba canta Catalogna. Go Fame, Go Fame, così me la mangia. Go Fame, Go Fame. Gofame è veneto, Gofame. Gofame è veneto. Allora, facciamo un confronto tra queste due esibizioni. Facciamo un confronto senza giudicare. Diciamo, la prima, forniamo degli elementi. La prima è una canzone, la seconda non ha una forma. Diciamo che sono diverse, è proprio di natura completamente diversa. Noi abbiamo generi. Approfittato a dire uno emo, l'altro punk, per semplificare. Beh, cosa in realtà dici? Uno è informale, l'altro è formale, diciamo così. Poi dopo tu puoi dire punk, come puoi dire anche psichedelico o surf anche. Cioè il pezzo di Rolling Stones fatto dai bambini, con questa lieve stonatura che è tipica dei bambini, ma in questo caso è voluta, che è, non so, nei dischi di Lou Reed, oppure nei dischi dei Bauhaus, quando c'è il canto che è proprio un po' stonato. La maledizione di La Dini. La maledizione di Dini. Sì, lui dentro a questo inferno. Invece l'altro Seba invece è vitale. No, l'altro è violento, diverso. È violento, è un bambino che è stato aizzato alla violenza. E quindi io non sono. Il bambino non ha colpa. Chi gli ha fatto fare questa cosa è una specie di violento. Bene, bravo, cioè, bravo, è un bambino che si esprime. Ma non si esprime, non si esprime il suo direttore d'orchestra, chissà chi è. Sono io. Adesso speriamo che con queste chiarissime indicazioni il pubblico sappia scegliere tra Dini e Seba. C'è una finezza in Go Fame. Sì. Che tutto è fuori tempo tranne in due punti in cui c'è il timbales che va esattamente su, quindi è stato fatto al computer. No, ma è Seba, è musica elettronica. Quella lui che fa Go Fame, le pentole. Ecco, sì, pentole. Un po' così, un po' così, un po' aggiustato, ma insomma, sì, è certo. Aggiustato al computer, è un pezzo di musica elettronica, altro che punk. Bene, abbiamo ascoltato le canzoni e i giudizi di Morgan. Ora è il momento del televoto. Votate per Dini o per Seba mandando un messaggio a chiedoasilo@radio24.it. Votadini, votadini, votadini. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Torniamo domani e votate per Kid Factor a chiedoasilo@radio24.it. Votadini. Chiedo asilo.